Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora partiremo con i dati sull'inflazione, inflazione in Europa e inflazione in Italia, rialza un po' la testa l'inflazione, il che, come abbiamo avuto modo di dire più volte, non è necessariamente una brutta notizia. Chiaro che un'inflazione alta è una brutta notizia, ma l'assenza di inflazione o la deflazione è una notizia forse anche peggiore, perché vuol dire che l'economia è completamente ferma. È ovvio che a questo punto ci si interroghi anche su quando le banche centrali iniziano ad alzare i tassi di interesse. Secondo molti osservatori è ancora molto molto presto. Come abbiamo visto la settimana scorsa, l'incertezza sui mercati è fortissima, è bastato un problema grosso a Dubai per penalizzare le borse, quindi è immaginabile che fino a diciamo metà del 2010 o un po' prima non vi saranno ritocchi dei tassi di interesse. Comunque, l'inflazione e previsioni anche di crescita, dopo che durante il fine settimana il Centro Studi Confindustria ha definito la ripresa italiana più solida già a partire dalla fine dell'anno, e quindi con un leggero anticipo rispetto alle previsioni di qualche mese fa. Ancora i mercati finanziari, giornata molto incerta oggi. Devo dire che tutte le borse hanno sempre oscillato intorno alla parità, adesso sono tornate a calare, meno 0,6% in questo momento Milano, come Francoforte e Parigi, Londra è quella che perde di meno, lo 0,25%, invariata invece l'America, e anche il Nasdaq perde uno 0,3%. L'euro è di nuovo forte, è a quota 1,50 ed è sopra anche 1,50, 1,5001. I titoli che più sono penalizzati in questo momento si chiamano UbiBanca meno 3,5, Mondadori meno 2,7, Impregilo meno 2,4, Italcementi meno 2,2, Buzzi-Unice meno 1,90 e poi Fondiaria, SAI, Bulgari e Tenaris che perdono l'1,7%. Chiudo con Autogrill e Banco Popolare che perdono 1,5%. Chi guadagna oggi invece è Pirelli più 1,80, A2A più 1,25, CIR e Telecom anch'essa in rialzo dell'1,2%, Fiat più 0,60. Buone notizie sono arrivate come previsioni sempre nel fine settimana sulle immatricolazioni auto in Italia, e Geox 0,5% di rialzo, Snam anch'essa 0,5% di rialzo. Parleremo quindi di inflazione, di prospettive economiche e anche dell'incontro, se ce la facciamo, governo sindacati per quello che riguarda la vicenda Fiat di Termini Imerese. Domani l'incontro invece, governo vuol dire Ministero alle attività produttive e quindi il ministro Scajola, domani l'incontro con il numero uno di Fiat Marchionne. E ancora cercheremo di affrontare il tema del bilancio, perché tra pochi minuti verranno premiate come ogni anno le società che hanno meglio realizzato i loro bilanci, l'Oscar di bilancio con diverse categorie. Avremo nostro ospite il vincitore della categoria grandi società quotate, che è Enel quest'anno, e quindi Fulvio Conti. Sarà un'occasione anche per parlare non solo del bilancio ma degli investimenti, dell'aumento di capitale, delle obbligazioni, della comunicazione ambientale e dell'investimento in nucleare, di come pensano di realizzarlo, diciamo, coinvolgendo anche le comunità locali sotto vari aspetti, vari punti di vista. 349-238-6666 per i vostri sms. Avremo anche un aggiornamento da Dubai. Perché? Perché oggi su Dubai è successo un po' di tutto, nel senso che, come già i nostri GR vi hanno raccontato, le borse sia a Dubai che a Abu Dhabi, che dovrebbe essere lo stato a questo punto virtuoso, sono letteralmente crollate questa mattina, meno 6%, meno 7,30% a Dubai, meno 8,30% a Abu Dhabi, anche superiore al calo. E poi soprattutto è arrivata la notizia a metà giornata, poco dopo l'una, che il debito di Dubai World, quindi quei 55 miliardi, quasi 60 miliardi di debito, che non riesce a pagare, che ha detto che per i prossimi sei mesi non ce la farà, poi vedremo, non sono garantiti dal governo. E lo ha detto lo stesso direttore generale del Ministero delle Finanze di Dubai. E Standard & Poor's poco fa, un'ora fa, ha messo sotto osservazione, e quindi con implicazioni negative, la banca commerciale di Abu Dhabi, che è praticamente la Abu Dhabi Commercial Bank. Questo, fermo restando tutti i dubbi, potrebbe far pensare o presagire a un allargamento della crisi, perché bisogna capire anche quanto Abu Dhabi sia esposta verso la sorella conflittuale anche delle volte, Dubai. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms. Rapidamente le altre notizie in breve di questa giornata. Allora, per quello che riguarda le previsioni commerciali a livello mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha rivisto al ribasso per la seconda volta da marzo le previsioni di crescita degli scambi commerciali nel 2009, un -10%. Praticamente il commercio mondiale nel 2009, questo per dare anche l'entità della sberla rappresentata da questa crisi prima finanziaria e poi economica, il commercio mondiale è tornato indietro ai livelli del 2005 come volumi e come valore complessivo. Buone le notizie invece che arrivano dall'India, che con la Cina si conferma, già Cina e il sud-est asiatico, il vero motore di questa ripresa che inizia a vedersi sulle economie di mezzo mondo. India, il PIL nel secondo trimestre fa un +8%, la borsa di Mumbai ha reagito positivamente, praticamente è cresciuto di quasi il 2,2%. È arrivata anche una stima di Goldman Sachs su quanto sia costata la crisi finanziaria in America dal marzo del 2009. Le perdite sono ammontate tra i 2.100 e i 2.600 miliardi di dollari. Questo lo dico perché poi si parla tanto di Dubai, 60 miliardi, ma insomma l'America per ora ha pagato 2.000, solo da marzo 2009, 2.000 miliardi di dollari. Ecco perché la stima complessiva si avvicina ai 5.000, c'è chi dice 8.000 miliardi di dollari. Complimenti ai geni della finanza americana, ma non solo. Ancora, il weekend in America del Black Friday, quello con cui si apre ufficialmente la stagione degli acquisti natalizi negli Stati Uniti, si è chiuso con un primo bilancio molto magro. Nel fine settimana lungo, perché ricordate la festa del ringraziamento, la borsa era chiusa giovedì, quindi da giovedì a domenica molti americani hanno fatto il ponte, che però non si chiama The Bridge. Circa 195 milioni di americani hanno fatto shopping nei negozi oppure online, ed è una cifra superiore, perché l'anno scorso furono 170 milioni, quando la crisi era ancora nella parte più virulenta. Solo che la spesa media degli acquisti è scesa a $343 contro i $370 del 2008, e con un calo complessivo anche delle vendite, che sono arrivate a 41 miliardi, sono scese a 41 miliardi di dollari. Questo è molto importante per capire anche come si stiano muovendo i consumi americani. Questa non è una bella notizia. Dell'inflazione europea diremo a novembre più 0,6%, il primo segno più nell'inflazione dopo 6 mesi di segno meno di deflazione. In Europa, in Italia, sempre a novembre, più 0,7% contro 0,3% di ottobre. L'Italia si conferma come il paese dove l'inflazione è più alta rispetto alla media, non la più alta, ma è più alta rispetto alla media europea. Ancora, scudo fiscale, è in arrivo una circolare, ma già vi erano anticipazioni ieri, la circolare per cui vi sarà tempo fino a un anno per le operazioni, fermo restando la scadenza del 15 dicembre per la dichiarazione riservata e per il pagamento dell'imposta straordinaria. Però l'operazione per essere conclusa vi sarà tempo fino a un anno. Il fisco italiano ha incassato un assegno record da parte di Leonardo Del Vecchio, il fondatore e patron della Luxottica, 300 milioni di euro versati al fisco per chiudere l'accertamento che gli ispettori fiscali delle entrate avevano aperto nei confronti di due società del gruppo Luxottica, la Leofin Holding e la Delfin. L'accordo fiscale, che anticipato oggi dal giornale, ha trovato conferme oggi dall'Agenzia delle Entrate. A Allora, per quello che riguarda la vicenda Fiat e le dichiarazioni del ministro Scajola rese poco prima del poco prima e durante l'incontro con i sindacati, per ora si è saputo che o meglio Scajola avrebbe detto, secondo fonti sindacali, che il governo si muove con l'obiettivo di aumentare la produzione di auto in Italia. E ancora ha sottolineato che l'analisi del governo si basa sul dato della produzione in diversi paesi. Ha poi garantito il sostegno del governo per quello che riguarda le vicende di Termini Imerese. Il nostro Savino Gallo ha raggiunto poco fa Antonino Regazzi, che è il segretario generale della UILM, quindi la parte metalmeccanica della UIL. Sentiamo. Noi abbiamo osservato, e su questo anche il ministro, che in Italia si producono solamente 650.000 vetture e siamo il secondo paese industrializzato d'Europa. In Belgio se ne producono 800.000, 1.200.000 in Spagna, 1.900.000 in Inghilterra e via di questo passo. Quindi tutti producono più di noi. Nel contempo abbiamo però un grande gruppo, la Fiat e la Chrysler, che sono in grado di produrre 6.500.000 di vetture. Quindi c'è due contraddizioni, un grande gruppo, piccola produzione, il secondo paese industrializzato d'Europa che produce meno di tutti. Ecco, c'è una contraddizione qui che in qualche modo deve essere chiarita. Noi chiediamo che sia fatto chiarezza su questo e di chiedere alla Fiat di ritornare a produrre 1.500.000 di vetture nel nostro paese, dica loro le condizioni per poterle fare e noi discuteremo. Alle stesse condizioni crediamo che sia il governo impegnato in questa battaglia, posto che l'economia dell'automobile del nostro paese continua ad essere l'economia più importante, che è quello che trascina un po' tutta l'economia del nostro paese. Se non si risolve il problema della produzione italiana, di ritornare a produrre 1.500.000 di vetture, non si salva né Termini Imerese ma neanche gli altri stabilimenti. Questo è il punto di partenza. Così appunto il segretario generale della UILM Antonino Regazzi per quello che riguarda l'incontro che si è appena concluso tra il ministro Scajola e i sindacati, vicenda Termini Imerese. Noi restiamo invece sui temi più complessivi dell'economia italiana. Dicevo, rapporto del Centro Studi Confindustria, fotografia scattata nel fine settimana e dati nuovi diffusi anche oggi. Il Centro Studi Confindustria ha stimato infatti che la ripresa si stia consolidando e il recupero nella produzione industriale vi sarà anche a novembre, più 1% rispetto a ottobre, che già aveva fatto un più 1,6% rispetto a settembre. E poi l'inflazione, qui il dato è europeo, a novembre più 0,6%, per la prima volta il segno più dopo 6 mesi, in Italia più 0,7%. Dottor Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Luca, io non riesco a chiamarti direttore perché insomma sei un collega. Vediamo di capire che cosa avete fotografato nel fine settimana e come questo si integri con i dati che avete diffuso oggi. Poi arriveremo anche all'inflazione su base europea e su base italiana. C'è un recupero della produzione industriale soprattutto a livello mese su mese? Beh sì, certamente, perché il confronto annuo è quello, diciamo, rispetto al picco precedente rimane ancora fortemente negativo. Come detto prima, il recupero mensile è dell'1% a novembre, che segue un più 1,6 a ottobre, sono entrambi dati stimati nella nostra indagine attraverso un panel di imprese e questo conferma il fatto che la ripresa c'è, anche se è un po' paradossale chiamare questo recupero una vera ripresa, perché si rimaniamo con un meno 20,8% rispetto al picco pre-crisi, quindi ripresa è veramente qualcosa di quasi beffardo, sì, come termine. Ecco, vorrei fare una considerazione: se io dicessi che se andiamo avanti a recuperare più uno mese su mese, ci mettiamo 20 mesi a recuperare meno 20, direi una castroneria. Purtroppo sì, perché essere meno 20 significa essere sul livello di 80, esatto. Se fai l'1% al mese non arrivi a 100 dopo 20 mesi, ci metti di più, comunque con l'orizzonte come minimo è quello, diciamo di più di 20 mesi, diciamo 25-26 mesi, cioè più di altri 2 anni, francamente vedo difficile, soprattutto perché questo calo è concentrato in alcuni settori come quelli dei beni strumentali, cioè di investimento, i mezzi di trasporto pesante, i beni di consumo durevoli e quant'altro, recuperare e resistere, diciamo, alla lentezza di questo recupero. Sì, a questo punto mi sembra che, se ho ben capito, ma anche qui correggimi, nessuno più mette in dubbio che il recupero c'è, cioè che la curva è tornata a salire. Il problema è il tempo, la lentezza. È un po' come, visto che facevamo tempo fa l'esempio del malato, tu puoi ricostruire il tuo sistema immunitario, il problema è quanto ci metti, perché appunto non si creano altre complicazioni. È sul tempo che dobbiamo guardare più che sul ripresa o non ripresa a questo punto? Beh, tempo che però diventa un fattore di selezione e di decisione, nel senso che da un altro appunto discrimina tra chi ce la fa e chi non ce la fa e dall'altro pone, diciamo, delle questioni di scelta da parte delle imprese su come, dove, quanto produrre, quindi ricollocarsi sul mercato, andare a trovare nuovi sbocchi, fare investimenti in innovazione. Sono scelte importanti, spesso anche dolorose, perché comportano magari chiusure di impianti, riconversioni, ristrutturazioni. Non è mai piacevole per un imprenditore decidere di smontare qualcosa che ha costruito negli arco degli anni. Per quello che riguarda, questo è indubbio, e ripeto, poi il tempo che dipende anche da quanto hai messo in cascina. Cioè, sappiamo tutti però che tendenzialmente le imprese italiane non hanno una grandissima patrimonializzazione e delle volte sono anche sottocapitalizzate, per dirla tutta. Sull'occupazione, voi che stime avete fatto? Ma le nostre stime per il momento in termini aggregato rimangono quelle già diffuse il 9 settembre, quindi una perdita di 700.000 posti e in termini di persone nell'arco dell'intera crisi è circa 1,2-1,3 milioni di unità di lavoro, sempre nell'arco dell'intera crisi, quindi una grossa parte è già andata. Noi presenteremo le nuove previsioni il 17 dicembre, prima di allora ancora un numero non lo abbiamo né lo possiamo dare. 1,2-1,3 milioni comunque non è poca cosa, anche se appunto abbiamo visto uno stabilizzarsi, per fortuna, della cassa integrazione, che comunque, come anche voi facevate notare, resta ai massimi dagli anni Ottanta. Questo per non dire sempre che, insomma, la situazione, il bicchiere può essere mezzo pieno, però attenzione. Ancora, i prestiti alle imprese, c'è la vexata questa, la discussione che ormai ha saturato tutti, a partire da chi parla, tra banche e imprese, con due posizioni molto diverse. Voi che andamento avete fotografato dei prestiti alle imprese? Ma il fatto fondamentale è che se guardiamo l'andamento in sé dei prestiti, cioè dell'aggregato dei prestiti, osserviamo un calo che è tutto sommato contenuto rispetto alla caduta della domanda di quei beni che di solito richiedono un finanziamento bancario. Il fatto è che però la stessa recessione nasce da un restringimento delle condizioni di credito e quindi il credit crunch è all'origine in un certo qual modo, lo si osserva più nelle indagini qualitative che in questi numeri quantitativi. L'altro aspetto da rilevare è che andando a parlare in giro con gli imprenditori si scopre che in effetti progetti di investimento ci sono, ma non riescono a trovare finanziamento anche adesso che la ripresa riparte c'è maggior bisogno di finanziamento e prestiti bancari, ma spesso le banche non ci credono, cioè non credono nel fatto che quell'impresa possa proseguire la sua attività e quindi tendono a essere selettivi, tendono a non erogare tutto ciò che serve per rilanciare l'impresa stessa. Quindi diventa una specie di cane che si morde la coda, fondamentalmente. Ecco, questo sarebbe l'effetto più vizioso e peggiore, cioè le profezie che si autoavverano in qualche modo. Perché se tu non presti soldi perché credi che quell'impresa non ce la possa fare, poi di fatto quell'impresa non ce la fa, tu hai ragione, però poi si distrugge o comunque si indebolisce il tessuto di impresa del paese a danno anche delle banche, perché poi le banche erogando credito vivono anche dal credito erogato alle imprese. Attenzione quindi, alla valutazione vera e propria è una valutazione un po' preconcetta, tanto non ce la fai e quindi i soldi non te li do. Se i soldi non me li dai è ovvio che non ce la faccio. Ancora una domanda prima di arrivare all'inflazione, Luca Paolazzi. Oggi c'è un dato, ci spostiamo all'estero, del PIL indiano che fa impressione, più 7%, più 8% nel secondo trimestre. Da quello e con un'ottima reazione della borsa di Mumbai. Da quello che voi vedete, insomma, qui si sta confermando una ripresa tutta giocata in Cina, India e sud-est asiatico, con invece consumi europei e anche americani. Il dato del ponte, diciamo, del Thanksgiving era abbastanza esemplare. Consumi europei e americani ancora molto deboli? Beh, sicuramente il Far East è quello che è uscito prima dalla crisi, se mai c'è entrato, parlando di India e Cina, e quindi fa anche da motore al resto del mondo. Teniamo presente però che senza, diciamo, la ripartenza del resto del mondo difficilmente, appunto, si può sperimentare una crescita delle nostre economie che sui mercati avanzati hanno le più ampie fette di fatturato, mentre in quei paesi emergenti le esportazioni sono ancora limitate. E un altro aspetto forse da considerare è che segni di ripresa, appunto, si vedono anche in Europa, negli Stati Uniti, certo non con quei tassi di crescita che tu hai citato prima. Vabbè. Allora, ultima domanda, l'inflazione. Come si coniuga il quadro che tu hai appena illustrato, che voi avete diffuso appunto nel fine settimana, con una ripresa a novembre dell'inflazione? Dopo sei mesi per la prima volta segno più, e ripeto, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, meglio un po' di inflazione che nessuna inflazione o inflazione negativa, e vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Più 0,6%, si torna al livello dello scorso aprile. A ottobre aveva fatto un meno 0,1%, questo a livello europeo. L'Italia più 0,7%. Luca Paolazzi. Una risalita era scontata, prevedibile, anche perché, ricordiamoci, così come l'accelerazione dei prezzi al consumo nel 2008 era stata dovuta all'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche alimentari, così questa decelerazione che ha portato addirittura a variazioni anno su anno negative era tutta legata di nuovo al calo del prezzo del petrolio e di quei prodotti alimentari. Quindi è stato un su e giù che non ha mutato in realtà le tendenze di fondo dell'inflazione. Se guardiamo l'inflazione core, questa è rimasta a oscillare intorno all'1,5% nell'area euro, poco sotto il 2% in Italia. E poi ne parleremo anche dopo le informazioni meteo di inflazione. Abbiamo preparato una scheda infatti su questo, perché le assicurazioni sui mezzi di trasporto hanno fatto un dato più alto della media. Oreficeria, qui c'è il record dell'oro, più 3%, e crollo vero e proprio invece dei prezzi dei prodotti agricoli. Questo è un tema che affrontiamo da settimane: meno 12% in media il grano, meno 35%, meno 40%. Ci sono ormai agricoltori che vendono sotto i prezzi di costo. Comunque, grazie al direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Noi ci risentiamo il 17 dicembre, a questo punto, quando diffonderete i dati. Benissimo, grazie a voi, buona serata. Ho chiesto 50.000 euro alla banca, a un'azienda sempre in attivo, non mi è stato dato. Lo so, ne riceviamo a decine di messaggi come questi ogni giorno, io però non posso continuare su un tema da cui non ne usciamo. I dati che abbiamo a disposizione parlano di contrazione del prezzo bancario, ma non così forte come voi registrate. Poi è chiaro che l'uomo che morde il cane fa più notizie, magari i messaggi che ci arrivano sono solo quelli di imprenditori che non hanno ottenuto i prestiti e non di chi invece il prezzo l'ha ottenuto, che magari non scrive. Borsa, chiusura brutta, brutta nel senso che il livello minimo della seduta, meno 1,25%, ha perso un punto percentuale nell'ultima mezz'ora. Milano, un punto percentuale di calo anche su Parigi e Francoforte. A 7:37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non ho fatto tempo a dire che non ci scrivono mai quelli che hanno prestiti dalle banche, siamo invasi di sms di chi ha ottenuto prestiti alle banche. Ho chiesto 70.000 euro con fidi impresa, nessun problema. Tanti altri messaggi, bene, siamo contenti. Poi c'è chi ci scrive: ho chiesto 3 milioni di euro alle banche per un impianto di biogas e me li hanno dati. Complimenti, ci dica dove abita, magari così ci trasferiamo lì. Noi andiamo avanti con gli aggiornamenti. Avete ragione, non abbiamo dato petrolio e oro. Petrolio aperto in ribasso a New York, ma siamo sempre a $75.90. L'oro è in calo invece per il terzo giorno consecutivo dopo lo scoppio della crisi sul debito di Dubai, dopo il record che ricordo è a $1.195 l'oncia. Oggi siamo a $1.166. L'inflazione, dicevamo, rialza la testa, era prevedibile in Europa, in Italia si conferma sopra la media. Che cosa ha contribuito? Beh, anche qui l'oro, l'oreficeria soprattutto, ripeto, crollo, molti ci scrivono, letterale, dei prezzi alla produzione agricola. Ci racconta tutto questa scheda. Prosegue la lenta ripresa dell'inflazione, che in novembre tocca lo 0,7%, registrando il quarto rialzo mensile consecutivo. A spingere i prezzi al consumo sono stati in primo luogo i carburanti e le polizze assicurative. Nell'ultimo mese la benzina verde è infatti aumentata del 3,5%, mentre il gasolio del 4,2%. Tra ottobre e novembre le assicurazioni sui mezzi di trasporto sono invece rincarate dello 0,9%. Viceversa, risulta più conveniente spostarsi in aereo, con i prezzi medi dei biglietti scesi in un solo mese dell'8,9%. Un contributo alla spinta dei prezzi è arrivato anche dal comparto oreficeria, con un aumento medio dei prezzi del 3,1%, sulla scia dei continui record messi a segno dal metallo giallo. Piccoli rialzi dei prezzi hanno poi interessato l'abbigliamento e l'istruzione, mentre sono scesi i costi delle comunicazioni e dei divertimenti. Più articolato il capitolo alimentari, dove crescono lievemente i prezzi di carne, pane e pasta, mentre scendono quelli di frutta e verdura. Cali che dovrebbero però essere ben più consistenti e generalizzati, secondo la Coldiretti, che segnala un nuovo crollo dei prezzi agricoli sui campi, meno 12% in media, con flessioni addirittura del 40% per grano e cereali. E proprio sui prezzi dell'agricoltura oggi una dichiarazione della Coldiretti dice: la speculazione sugli alimenti sul settore agroalimentare, le inefficienze e la speculazione lungo la filiera sono costate ai cittadini e alle imprese agricole 5,8 miliardi di euro nel 2009 per effetto di un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari più 1% rispetto alla media generale dell'inflazione, nonostante, e questa è un'altra di quelle domande che non riusciamo, su cui non riusciamo a trovare risposta, i prezzi alla produzione, quindi dal campo, siano calati del 13%. È un po' come la benzina, un po' come i prezzi bancari. Non si riesce a capire perché se il bene costa un meno 13% con punte del meno 40%, poi arriva sul banco e ti costa un più 1%. Misteri della filiera della grande distribuzione, ma non solo. Adesso però la borsa. Dicevo, chiusura sui minimi per tutte le borse europee, e meno 1,25%, non è drammatica. Sotto i 21.000 punti FTSE MIB, però per buona parte della seduta il calo era intorno allo 0,2-0,3, invariato. Invece Parigi meno 1,1%, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,85%, l'America perde lo 0,3% sul Dow Jones. Chiedo a Guido Maurino del Sole 24 Ore Radio Corbo, buonasera. Buonasera. Il motivo di questo, diciamo così, peggioramento nell'ultima mezz'ora? Ma diciamo che le borse erano leggermente migliorate in scia a un'apertura di Wall Street che era stata positiva. Poi in realtà Wall Street ha ripiegato, sta ancora ripiegando, per cui sostanzialmente le borse europee, che avevano aperto già un in mattinata abbastanza incerte, hanno optato per chiudere in negativo. Le ragioni sono un po' sempre quelle che arrivano dal Dubai. Oggi il Dipartimento delle Finanze dell'Emirato ha precisato che non garantirà il debito di Dubai World, quindi per i creditori, le banche, molte banche europee nel breve termine dovranno accollarsi, sì, insomma, alle conseguenze della ristrutturazione. Quindi ancora effetto Dubai, bye bye Dubai. Va bene, ne parliamo, tra l'altro abbiamo un approfondimento su questo dopo la borsa. Andiamo avanti, Fiat si è un po' sgonfiata, meno 0,15%, guadagnava invece mezzo punto percentuale. Qui Dubai non c'entra nulla. Allora, alcune dichiarazioni che il ministro Scajola ha reso poco fa quando è uscito dall'incontro con i sindacati. Dunque Scajola non ha parlato con i giornalisti, quindi non parlerà neanche con noi, l'abbiamo appena raggiunto tramite il suo portavoce. E domani c'è l'incontro a mezzogiorno con il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne. Però le dichiarazioni attribuite a Scajola sono dichiarazioni dei sindacalisti lì presenti. Avrebbe Scajola confermato le preoccupazioni per la chiusura dello stabilimento a Termini Imerese, dicendo che le preoccupazioni dei sindacalisti sono fondate. Ancora, per quello che riguarda le dichiarazioni, Scajola vorrebbe aprire un confronto informale con la Fiat, una serie di incontri informali e preparatori. Guido. Sì, oggi, a parte queste notizie che comunque tengono banco rispetto all'aspetto produttivo di Fiat, va segnalato anche che c'è un report da parte di Goldman Sachs che soprattutto in mattinata aveva sostenuto il titolo. Gli analisti continuano a scommettere su Fiat, hanno di nuovo alzato il target price da 10,5 euro a 14 euro, la raccomandazione resta buy ed è insomma... E questo ha sostenuto in parte Fiat in una giornata in cui il comparto auto comunque non ha brillato a livello europeo. Andiamo avanti. Oggi però il titolo che perde di più in assoluto, allora partiamo da chi ha guadagnato: A2A più 1,2, Pirelli più 1%, Snam mezzo punto percentuale di rialzo, come le CIR, Telecom più 0,20. Chi ha più perduto si chiama UbiBanca, è anche peggiorata nel finale, meno 4,1%. Sì, diciamo che è stata una giornata non brillante per tutto il settore bancario, infatti come abbiamo visto in questi giorni le cattive notizie dal Dubai si riflettono in modo particolare sul settore bancario e sul settore delle costruzioni. UbiBanca è stata ulteriormente penalizzata da un report di Chevreux sul settore bancario che stima che come siano necessari altri 13 miliardi di euro di capitale per le banche italiane, in modo particolare per le grandi banche, e per quello che riguarda Ubi ha abbassato le stime sull'utile per azione del 20%. Questo ha portato a una revisione al ribasso dei giudizi sul titolo e del prezzo obiettivo, che ha influito in modo pesantemente negativo oggi sulle quotazioni di UbiBanca. Allora, sempre tra i peggiori, tra i titoli più grossi, Mondadori meno 3,3, Impregilo meno 2,80, Fondiaria meno 2,5, come Italcementi e il Banco Popolare, appunto a conferma che non è stata una gran giornata nemmeno per i bancari né per i titoli legati alle costruzioni. Anche qui l'effetto si chiama Dubai. Bulgari meno 2,2 come Unicredito, Mediolanum perde l'1,90 come Buzzi Unice, ma altro titolo legato appunto al settore costruzioni. Autogrill meno 1,90 anch'esso come Luxotti, Catenaris meno 1,80, Saipem pure 1,5% il calo di Campari e del Monte dei Paschi, ma anche di Steam Electronics, Eni meno 1,4, Mediobanca meno 1,3, Finmeccanica meno 1,2% come Unipol e la Popolare di Milano. Tra i migliori e peggiori in assoluto, dunque Bastoggi più 6,8, tra i migliori Edes più 8,5 e Acea più 4,5. Tra i peggiori Givais meno 10%, Gas Plus SPA meno 8,38. Novità su Safilo? Ancora no, ancora stiamo attendendo di capire qual è il risultato finale dell'offerta sul bond. Comunque è probabile, almeno per quello che abbiamo visto ultimamente, che arriverà nei prossimi minuti. Ecco. Ah beh, casomai la daremo noi in diretta. Grazie Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Such was the challenge the ruler of Dubai, Sheikh Mohammed, faced when he announced his vision. We know there's a general vision. Vision. Vision. Vision. Everybody talks about Dubai, vision, vision, vision. The vision of Dubai is to be the dominant commercial and tourist hub for the Middle East. We're shaping that vision. The immediate answer? add more coastline. La Vision di Dubai, il famoso spot che girava per il mondo in cui tutti parlavano di questa visione di Dubai. Beh, la visione di Dubai a cui assistiamo in questo momento, non vorrei fare Dubai con Dubai, ma è una visione assolutamente diversa da quella che lo sceicco e tutti i grandi investitori, compresi molti giornalisti e molta stampa, esaltavano fino a qualche mese fa. Al di là della vicenda vera e propria, ne abbiamo parlato e straparlato, però c'è un'agenzia appena battuta, il governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi, Sultan al-Suwaidi, è intervenuto alla TV di Abu Dhabi per tranquillizzare. Non c'è bisogno di preoccuparsi per lo stato delle banche del Golfo, il capitale delle banche è aumentato ed esse hanno un'ampia base di depositi stabili. Perché questo? Perché si fosse appena messo in collegamento questa mattina, non solo sono crollate sia la borsa di Dubai -7,30% che quella di Abu Dhabi -8,30%, ma poi è arrivata la notizia che ha penalizzato anche tutte le nostre borse, e l'abbiamo appena raccontato, che il debito di Dubai World, cioè l'emittente, quella, la società che ha 60 miliardi quasi di debito che non riesce a ripagare, non riuscirà a ripagare per almeno i prossimi 6 mesi, non è garantito dal governo. E allora, in collegamento a Dubai, dove si trova da quando è scoppiata la crisi, e beato lui, visto che il tempo dovrebbe essere bello, almeno quello, Angelo Mincuzzi, inviato del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci confermi che è sempre un po' nuvoloso. Nemmeno quello, va bene, non è proprio aria per Dubai. Allora, al di là della dichiarazione del governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, il sultano al-Suwaidi, spero di pronunciarlo bene, come mai è uscita una notizia che obiettivamente ha creato un nuovo timore sul mercato, come quella che il debito di Dubai non sia garantito dal governo? E mi sembra questa è stata, diciamo, una notizia che ha scosso sicuramente, anche se bisogna dirlo, gli operatori economici già lo sapevano perché era tutto scritto nei prospetti informativi dei bond, per cui chi li ha acquistati sapeva già. Certo che detto dal direttore generale delle finanze, quindi da uno che conta qui all'interno dell'Emirato, suona come una presa di posizione precisa, e cioè i creditori dovranno arrangiarsi da soli. È una presa di posizione che segna una demarcazione tra il governo e la sua società controllata. È un aspetto di novità di cui bisogna tener conto, soprattutto per l'interpretazione, come dicevo prima, che questo atteggiamento fornisce. Sì, è sembrata... Devo aggiungere una cosa, prego, ecco, se mi consenti, una cosa. Tutta questa vicenda della crisi è una vicenda che va interpretata, va letta, e di cui veramente non si conoscono tutti gli aspetti, c'è qualcosa che ancora sfugge. Bisogna, come dire, fare un po' di cronologia, cioè ricordare che pochi giorni fa l'emiro di Dubai, che è quindi è colui che controlla tutto il paese, perché questa non è una democrazia, ricordiamolo, ha rimosso tre importantissimi suoi collaboratori, che sono quelli immediatamente sotto di lui, sotto la linea di comando di tutte le società di Dubai, cioè la Dubai Holding, Dubai World e Investment Corporate of Dubai. Erano i tre suoi bracci destri che hanno realizzato in questi anni il suo progetto di sviluppo della città. Da un giorno all'altro sono stati rimossi, e oggi a capo di queste tre holding, che ripeto controllano tutte le società di Dubai, non c'è nessuno, non sono ancora stati sostituiti. Sì, hai ragione a vedere in questo qualcosa di strano. Io, se riusciamo in un minuto, Angelo, trovo anche molto strano che da un lato se ne esca, capito, il ministro delle finanze di Dubai dicendo attenzione, non garantiamo il debito, insomma, se voleva creare un po' di maretta sui mercati anche oggi ci è riuscito. Dall'altro, appunto, gli risponde poco fa il governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi, ma soprattutto Standard & Poor's, una delle principali agenzie di rating al mondo, ha messo sotto osservazione in maniera negativa il voto sul debito di Abu Dhabi, non di Dubai, e sembrerebbe questo, diciamo, un principio di propagazione, di effetto domino. Sì, perché guardando oggi i risultati delle borse, si nota come il calo peggiore sia stato ad Abu Dhabi. Abu Dhabi controlla, le banche di Abu Dhabi posseggono circa il 30% del debito di Dubai, quindi sono quelle più pesantemente esposte. In borsa oggi sono precipitate le principali banche di Abu Dhabi. Sembrerebbe strano questo, cioè l'emirato più forte subisce i contraccolpi maggiori. Ma evidentemente qui sotto c'è in corso qualcosa ancora noi non riusciamo a spiegare. Eh sì, e da lì anche il nervosismo dei mercati. No, obiettivamente è tutta strana la dinamica e l'età tempistica di questa vicenda, perché uscire con una nota del genere che poi obbliga tutti a rivedere e fa crollare letteralmente, anzi Abu Dhabi è crollata più di Dubai, meno 8,30 contro il 7,5% di Dubai. Grazie Angelo Mincuzzi in collegamento con noi da Dubai, mi sa che ci risentiremo, speriamo che almeno il tempo migliori lì. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Volete un aggiornamento da Wall Street? Devo dire che l'America sta perdendo molto molto meno di quanto non abbiano perso le borse europee, perché se il motivo si chiama, come abbiamo spiegato ampiamente ancora una volta, Dubai e rischi sulla non copertura da parte del governo di Dubai dei debiti che la Dubai World non riesce a pagare, ormai sappiamo che le banche più esposte sono quelle europee, britanniche, qualche francese, BNP Paribas e qualche tedesca, non certo quelle americane. Ecco perché l'America perde lo 0,3%, mentre le borse europee hanno perso l'1,3% in media, e quindi un punto percentuale in più. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso parliamo dei bilanci, di chi ha vinto l'Oscar di bilancio, ma parleremo anche, capirete perché, di energia nucleare. Poco fa infatti si è saputo chi ha vinto quest'anno gli Oscar di bilancio, che sono diversi nel 2009 su diverse categorie. Allora, i riconoscimenti sono andati a Enel per quello che riguarda la categoria grandi imprese quotate, Intesa San Paolo per quello che riguarda il premio speciale per la governance societaria, Mediolanum fra le assicurazioni, Credito Valtellinese tra le banche e le finanziarie, Viasat fra le piccole e medie imprese, la banca del credito cooperativo del Garda fra le piccole imprese bancarie, e poi per le organizzazioni no profit, Associazione Cooperazione Rurale in Africa e America Latina, Nordiconad per le grandi imprese non quotate, chiudo con Fondazione Umanamente del gruppo Allianz per quello che riguarda la categoria fondazioni. L'Oscar di bilancio viene assegnato ogni anno in queste categorie alle imprese che meglio hanno saputo redigere un bilancio sotto vari criteri e caratteristiche. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, dentro il bilancio non c'è solo un obbligo di rendicontazione. Comunque siamo in collegamento con uno dei vincitori, e mi riferisco al gruppo Enel, nella persona dell'amministratore delegato Fulvio Conti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, complimenti, come sempre facciamo ai vincitori. Voi avete vinto un Oscar di bilancio in un anno, insomma, il 2008 è un anno molto difficile, ma per voi il 2008 e il 2009 hanno rappresentato anche degli anni in cui avete compiuto operazioni come 8 miliardi di aumento di capitale annunciati e 10 miliardi di collocamento di obbligazioni. L'aumento di capitale l'avete deciso a fine maggio 2009, le obbligazioni le avete collocate anche su periodi molto lunghi. Quanto è importante la comunicazione finanziaria quando si chiede di fatto al mercato, da un lato un prestito come l'obbligazione, dall'altro invece agli azionisti di partecipare, di mettere ancora soldi dentro il titolo e il gruppo? Beh, certo, la trasparenza e il dettaglio informativo sono fondamentali per convincere gli investitori ad aver fiducia in un'azienda come Enel, soprattutto come è stato il caso nostro di aver riscontrato una vasta adesione ad operazioni importanti come l'aumento di capitale che ha visto coinvolti sostanzialmente tutti i nostri azionisti, sono circa 1.300.000 persone che hanno partecipato e tutti gli investitori istituzionali mondiali che hanno sottoscritto le nostre obbligazioni, se non fosse per una, direi, disponibilità assoluta da parte nostra nel rendere disponibili in maniera trasparente e continua masse importanti di dati e di informazioni relative al nostro business, evidentemente avremmo avuto maggiori difficoltà nell'ottenere queste enormi risorse finanziarie che adesso stiamo evidentemente utilizzando per la grande crescita e la trasformazione in una multinazionale che è stata da noi operata in questi ultimi anni. E qui veniamo anche all'importanza del, del bilancio, perché spesso abbiamo ricordato come mai il bilancio non è più la semplice rendicontazione a norma di legge di come si è chiuso un esercizio, quindi un anno finanziario, ma diventa anche una specie di autoanalisi, di esercizio per descrivere quello che è un gruppo e imparare, se mi passa anche termine, a comunicare meglio. E in effetti è così, il bilancio va oltre la mera elencazione dei fatti contabili che poi si trasformano in conto economico e non stato patrimoniale. Oggi il bilancio non solo è uno strumento di informazione allargata anche ad eventi che non necessariamente trovano manifestazione contabile, è uno strumento indubbiamente fondamentale per avere una corretta comunicazione e trasparente comunicazione con non solo gli azionisti ma con tutti gli stakeholders e sia quindi ad altri temi per noi fondamentali come quello del bilancio, ad esempio la sostenibilità, il bilancio ambientale, sono tutti argomenti che diventano parte integrante di una comunicazione completa, trasparente e sempre al servizio di una presentabilità dell'azienda nel suo insieme. E credo che siamo riusciti da alcuni anni a questa parte efficacemente a sviluppare questi concetti di trasparenza e di informazione ampia, ad ampio spettro per tutti i nostri stakeholders, tali da meritarci la fiducia continuativa non solo delle istituzioni ma anche di tanti azionisti dei nostri lavoratori. Dottor Conti, ci fermiamo per le informazioni sul traffico e tra poco torniamo in diretta. Io ricordo però, visto che ce lo chiedono anche gli ascoltatori, adesso arriveremo a parlare anche di temi legati al nucleare, agli investimenti in ambiente, sulle emissioni ambientali di Enel, visto che siamo vicinissimi al vertice di Copenaghen. Dicevo, sono 184 le società che hanno inviato la candidatura per l'Oscar, 22 in più rispetto al 2008. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, vincitore di uno degli 8 Oscar di bilancio, appunto quello nella sezione società e grandi imprese quotate. Torniamo, dottor Conti, al tema della comunicazione, ma non solo verso gli azionisti, anche verso i cosiddetti stakeholders, che poi sarebbero tutti i soggetti che sono portatori di un interesse e di interessi verso quello che voi fate. Lei prima accennava alla comunicazione per quello che riguarda la sostenibilità ambientale. Ora voi siete un grande gruppo energetico, insomma, con Eni il più importante del paese, ed è chiaro che quando Enel comunica deve, come lei diceva, spiegare qual è l'attenzione all'ambiente. Poi arriveremo al nucleare, lo dico a chi scrive al 349-238-6666. Qual è lo sforzo che si fa quando si cerca di far capire quella che è l'attenzione o comunque la sensibilità ambientale in un gruppo che comunque viene visto da alcuni ambientalisti anche come un po' così produttore di inquinamento? Essere favorevole ad un ambiente migliore non è per noi uno slogan, un modo di dire, un modo di essere, un modo di operare. Noi lavoriamo da molti anni e continueremo a farlo in maniera molto puntuale nei prossimi con investimenti mirati a migliorare la qualità delle performance dei nostri impianti, delle nostre reti di distribuzione e a ridurre significativamente fino a misure dell'80% le emissioni di possibili sostanze nocive alla salute se troppo concentrate. Stiamo evidentemente sviluppando tecnologie nuove per ridurre anche le emissioni di anidride carbonica, di cui evidentemente ci sentiamo molto orgogliosi in quanto siamo stati selezionati dall'Europa per la nostra leadership tecnologica e evidentemente vogliamo comunicare questi nostri impegni e i risultati concreti che noi realizziamo anche attraverso il bilancio ambientale. Poi vogliamo fare anche altro, evidentemente, che va nella direzione delle nuove tecnologie che emergeranno nei prossimi anni, che saranno ancora più ambientalmente compatibili con lo sforzo di riduzione dell'anidride carbonica, sono le tecnologie innovative nel solare ad altissima concentrazione, il sole di notte, tanto per dire, e la capacità di sviluppare tecnologie per la cattura e il sequestro dell'anidride carbonica. Ecco, sono tutte cose che noi ci impegniamo a fare e che troveranno puntuale riscontro nelle nostre rendicontazioni ambientali, di cui siamo stati degli antesignani negli anni passati e continuiamo ad essere degli, come ecco, orgogliosamente rivendichiamo oggi. Prima di arrivare al nucleare, che è l'ultima domanda che ho per lei, le chiederei una piccola precisazione. Vedo già alcuni messaggi sul nucleare, ma per quello che riguarda la possibilità di catturare l'anidride carbonica, che è una nuova frontiera, visto che siamo alla vigilia del vertice di Copenaghen, è la nuova frontiera, cioè catturare le emissioni e praticamente ingabbiarle sottoterra, se ho ben capito, e lì mi sembra, ma me lo confermi lei, dottor Conti, che l'Italia sia all'avanguardia. E poi anche per quello che riguarda il solare a alta concentrazione, il solare di notte, di che cosa si tratta nei due casi? Beh, nei due casi molto semplicemente noi abbiamo sviluppato questa tecnologia che ora l'Europa ci chiede di aumentare di scala per renderla effettivamente sfruttabile insieme agli impianti che usano combustibili fossili, quindi con una più elevata presenza di carbonio, di anidride carbonica, per fare in modo che dal processo di lavorazione, quindi dall'utilizzo del carbone o di altri materiali combustibili come il gas, che comprendono atomi di anidride carbonica, si possa arrivare a un processo di lavorazione che catturi, cioè che non liberi in atmosfera questo atomo di anidride carbonica, che consenta poi di poterlo reimpiegare o per utilizzi produttivi o stoccarlo, immagazzinarlo in depositi sotterranei che sono disponibili. È un'operazione di per sé tecnicamente già provata e che noi sotto la spinta di questo impegno che come Europa in particolare portiamo avanti di riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% nei prossimi anni, pensiamo incontri il favore non solo dei tecnici ma anche dei politici che si sono prefissati questo importante obiettivo. È una tecnologia comprovata e l'Europa ci dice che noi siamo leader in quanto ci affida 2 progetti su 6 per la dimostrazione su scala industriale di questa stessa tecnologia. Per quanto riguarda il solare ad alta concentrazione, si tratta di utilizzare i raggi del sole per accumulare questa energia attraverso dei meccanismi molto di per sé banali, evidentemente ancora oggi costosi, di accumulo di energia attraverso riscaldamento di questi sali fluidi che poi vengono rilasciati nel corso della notte, per cui il sole sostanzialmente lavora anche durante la sua assenza di notte o nei giorni di nubi. Ed è una tecnologia che promette di essere particolarmente rivoluzionaria e che darà enormi benefici tecnologici e sperabilmente economici anche a noi. Ultima domanda, dottor Conti, il nucleare. Ora, della parte tecnica avremo modo di parlare, già abbiamo fatto approfondimenti anche visitando, mandando un nostro inviato con voi a Flamanville per vedere qual è la tecnologia francese. Proprio sul tema della comunicazione, lì, voglio dire, vi aspetta un compito non invidiabile, conoscendo la logica del not in my backyard, del non nel mio giardino, che è presente anche in questo paese. Cioè, come pensate di riuscire a spiegare alle comunità locali dove si deciderà di ospitare questi siti, cioè che in realtà l'operazione è gestibile, cioè, lì è una comunicazione aggiuntiva a mio avviso. Intanto come parte iniziale del nostro discorso dobbiamo considerare che da recenti sondaggi c'è un crescente segno di attenzione positivo da parte dell'opinione pubblica nei confronti del nucleare, c'è una crescente direi opinione a favore del nucleare, anche perché ci si rende conto che altri paesi a noi vicini come la Francia, la Svizzera, la Slovenia, da cui peraltro importiamo energia nucleare, quindi siamo già in qualche modo nucleare continuamente, vengono presi come un buon esempio e questo ci aiuta a pensare che attraverso delle forme opportune di comunicazione questo consenso possa allargarsi. I dati di fatto sono che intorno a noi, nei 200 km ai confini dell'Italia, ci sono 27 centrali nucleari che, insistono a dire, già in qualche misura forniscono energia nucleare a noi, che questi 27 centrali sono perfettamente adeguate a rendere non solo meno costosa l'energia, ma anche più affidabile e direi senza ombra di dubbio sicura. Basti citare una cifra che la stupirà. Dal giorno in cui c'è stato l'unico vero terribile incidente nucleare, che è stato quello di Chernobyl, ad oggi tutte le centrali nucleari al mondo hanno lavorato per 1300 anni continuativamente senza alcun incidente, quindi credo che questa sia la migliore misura di garanzia per la sicurezza che queste tecnologie hanno. Noi poi come Enel vogliamo evidentemente proporre investimenti in questo settore, perché in Italia questa tecnologia manca, c'è bisogno anche del nucleare, oltre che degli investimenti nelle rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle nuove tecnologie per i combustibili fossili, per avere una produzione di energia elettrica a basso costo e ampia ed abbondante come in altri paesi. Io poi parto dal principio che l'energia elettrica è la soluzione e spero di vederla applicata anche alla mobilità con le auto elettriche. Ma in una battuta, secondo lei, dottor Conti, è pensabile che le comunità locali vengano coinvolte e insomma in qualche modo convinte anche con degli incentivi economici? Dovranno essere coinvolte evidentemente e sicuramente, come già oggi avviene per altri tipi di investimenti, ci saranno una serie di provvedimenti, di indennizi e anche di supporti e sostegno di questo investimento. Già oggi avviene per altre tecnologie o per altri tipi di insediamenti industriali. Non c'è ragione perché non possa essere anche il caso del nucleare. Ma al di là di questo c'è bisogno di una comunicazione scientifica, sì. Direi imparziale, onesta, trasparente su quelli che sono i meriti del nucleare, per convincere le persone che un impianto nucleare vicino a casa, così come avviene in tutti i paesi a noi vicini e confinanti, così come è stato per noi in Italia per tanti anni, fino al momento in cui si è deciso in maniera, a mio giudizio, scellerata di abbandonarlo, un investimento amico e non un investimento nemico della gente. E immagino che appunto su questo bisognerà lavorare molto, ma mi sembra che le direttrici siano queste, cioè compensazione economica da un lato, spiegazione scientifica dall'altro e coinvolgimento forte delle comunità locali. Comunque, grazie e complimenti ancora all'Enel per aver vinto l'Oscar di bilancio quest'anno nella categoria società e grandi imprese quotate. Grazie all'amministratore delegato Fulvio Conti. Grazie a lei, a presto. Allora, che qualche problemuccio di comunicazione sul nucleare ci sia, ce lo dimostrano le decine di messaggi che sono arrivati, del tono Barisoni ma vaffa e qui mi fermo, sei un co, sei una STR, insomma tutti toni molto molto leggeri per aver parlato di nucleare. No, diciamo, ci sono anche alcuni insulti perché non abbiamo ricordato le bollette dell'Enel. Io vorrei ricordare a chi scrive, magari anche, che i prezzi delle bollette energetiche non sono fissate liberamente, non è come il petrolio, c'è anche un ruolo dello Stato. Ma al di là del prezzo delle bollette, sappiamo che in Italia si paga l'elettricità un 20-30% in più rispetto alla media europea. Gli operatori dicono anche perché non usiamo il nucleare, importiamo tutto, gas e petrolio. Dopodiché chiudiamo la puntata sul nucleare. Nessuno qui, men che meno sottoscritto, ha un'idea precisa. L'importante è però ascoltare tutte le idee. Io poi mi chiedo se i francesi, i tedeschi, gli svizzeri, ossia chi il nucleare lo ospita vicino a casa, siano così dei pazzi, dei folli, dei popoli senza cultura e civiltà ecologica. Poi c'è chi dice anche, attenzione, però le Alpi ci schermano da fughe radioattive. Beh, io ero molto piccolo quando ci fu quello di Chernobyl, non mi sembra che le Alpi ci abbiano schermato così tanto, ma comunque, visto che aggiunge che siamo anche dei minus abens, io ricordo una cosa diversa su Chernobyl. Ma va bene così, parleremo di tutto e parleremo anche con chi detesta il nucleare. Per ora, da Sebastiano Barisoni, a voi in ascolto, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.